Apocalisse globale totale. Apocalisse virale globale. Apocalisse totale globale. Apocalisse virale globale. Apocalisse globale totale. Apocalisse virale globale. Apocalisse totale globale. Apocalisse virale globale. Il tutto avverrà per opera divina, oppure sarà l'uomo. Il tutto avverrà per un fatale virus. Virus, la SARS ci ha già provato. Bloccata, bloccata. E poi l'Ebola, l'Ebola tra i condotti di areazione, di areazione, di areazione. Esistono circa 2000 tipi di virus attivi nel mondo. Ci distruggeranno senz'altro, senz'altro. Senz'altro, senz'altro non ci sarà più un altro Petro.